Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ne abbiamo parlato a Smart City quasi 3 anni fa, quando era appena stato avviato. Parliamo del progetto eSecurity, un progetto che si è svolto a Trento, finanziato dall'Unione Europea, con un obiettivo: costruire un sistema informativo intelligente a supporto sia delle forze dell'ordine sia del governo della città per quanto attiene il problema, diciamo così, della sicurezza urbana. Con quali obiettivi? Ce lo facciamo spiegare fra poco. Questo progetto, intanto, diciamo che ha visto collaborare Questura, la Fondazione Bruno Kessler, il Comune di Trento, ed è stato coordinato dall'Università di Trento, in particolare dal gruppo di ricerca e-crime, coordinato a sua volta da Andrea De Nicola, che insegna criminologia appunto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento e che è qui in studio con me. Ciao Andrea. Buonasera. Allora, intanto l'ipotesi di partenza di tutto questo lavoro è che i reati, o almeno certi reati, siano in qualche misura prevedibili. Partiamo da qui: che reati hanno queste caratteristiche? Furto in appartamento, furto di auto, furto su auto, alcune lesioni nello spazio che ci sono in città, quindi reati di carattere predatorio, reati che sono influenzati dalla città, dall'ambiente, dal contesto. Sì, dal contesto, dai movimenti delle persone. Lo spaccio di droga sarà un altro di questi assolutamente reati. Assolutamente sì, non stiamo facendo fantascienza, stiamo facendo scienza, non entriamo nella mente dei serial killer, ma sappiamo che lo spazio influenza alcuni comportamenti criminali. Che il tempo e lo spazio, una serie di condizioni di contorno, possono rendere più probabile che in quel punto, in un certo lasso di tempo, in una certa zona geografica, si verifichi quel tipo di reato. Possiamo metterla così. È probabilità, assolutamente. Questi criminali sono razionali, non vogliono andare in galera, scelgono, e scelgono in relazione al contesto, e quindi in base a questo contesto noi possiamo prevedere, ma la parola giusta è analizzare i rischi. Su che dati intanto vi siete basati a vostra volta? Innanzitutto i dati sui reati denunciati, quindi un dato di polizia: dove avvengono i reati geograficamente, nello spazio, nel tempo. Questa georeferenziazione del reato passato aiuta a prevedere la probabilità della concentrazione futura. Poi siamo andati a costruirci dei flussi di dati autonomi. Uno di questi flussi riguarda l'insicurezza delle persone e quanto le persone sono vittime ma non denunciano. Quindi su un campione di cittadini trentini, perché il nostro test era Trento, di 4.000 persone, abbiamo chiesto delle informazioni sempre con attenzione al contesto. Siamo andati poi a lavorare su un terzo flusso, che è quello del disordine fisico e sociale, rilevato attraverso un software che è stato costruito dalla Fondazione Bruno Kessler. La polizia ha rilevato, questa volta in modo oggettivo, gli episodi di disordine nella città e li ha collocati puntualmente, spazialmente e temporalmente. E infine ci sono quelli che abbiamo chiamato i dati della Smart City. Pensate al traffico, alle persone negli autobus, al numero di macchine parcheggiate in un certo momento, all'illuminazione della città, o ad altre informazioni che il tempo mette. Il no? Tempo, il meteo, che influenza sicuramente alcuni reati. Bene, dati su questo esistono, spesso sono raccolti da una provincia, da un comune, da un ente per locale. Per tutt'altre ragioni. Proviamo ad utilizzarli. Voi avete cercato di capire se erano correlati al fatto che si verificasse un reato. E quali sono stati alla fine quindi i risultati di tutta questa elaborazione? Beh, su questo set di dati noi abbiamo fatto girare le nostre analisi, abbiamo costruito degli algoritmi, un software che intreccia e rende, rappresenta quindi queste analisi, le fa vedere a un questore, a un capo della polizia, a qualcuno che fa controllo di territorio, o a un sindaco, a chi gestisce la sicurezza. Dal punto di vista, il primo punto di vista, quello di un poliziotto, di chi gestisce la sicurezza fisica sul territorio, noi siamo andati a creare mappe di rischio. Queste mappe di rischio ci prendono molto spesso. Cioè quanto avete misurato? 60-65% probabilità. Ecco, spieghiamo bene, stiamo parlando per lo più di furti in questo caso, se non sbaglio. Sì, no? Non di un serial killer. Anche perché non siamo nel Bronx, ma come dicevamo siamo a Trento. Assolutamente. Quindi parliamo di furti d'appartamento, e voi in un 60-65% dei casi siete in grado di dire che in quella notte, in quella zona lì, è probabile. Siamo arrivati a analizzare settimane, per semplificare. Okay. Quindi abbiamo visto, immaginatevi, abbiamo lavorato su 4 anni di dati e noi abbiamo la possibilità di confrontare settimana per settimana la concentrazione nello spazio e nel tempo dei furti in appartamento e quello che abbiamo predetto noi. Ecco, solo guardando queste due mappe, l'osservato e il predetto, si capisce che c'è un quasi coincidenza molto spesso. Molto forte. E questa è evidentemente un'indicazione precisa per chi deve organizzare la sicurezza in città e sa che magari deve presidiare di più certe zone piuttosto che altre. Tanto insomma. Più a risorse scarse, come avviene oggi in tutta la nostra pubblica amministrazione. Ecco, un'altra cosa che avete cercato di capire era un po' il rapporto tra il rischio effettivo e la percezione che c'era del rischio da parte della cittadinanza. Che cosa è venuto fuori? Beh, immaginate di avere delle mappe che dicono al sindaco semplicemente come questi fenomeni si sovrappongono come dei layer, quindi tu c'hai l'insicurezza rappresentata geograficamente, il disordine e la sicurezza oggettiva, il rischio. Ecco, molto spesso questi fenomeni non vanno d'accordo, vanno ognuno per conto proprio, e dentro quelle variabili e quei dati ci possono essere anche delle spiegazioni, o altre le può cercare l'essere umano guardando le mappe e vedendo queste rappresentazioni. Grazie Andrea Di Nicola. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.